3. Quando il momento del parto si avvicinò, Wang Lung disse alla donna: «Ci serve qualcuno che aiuti quando sarà il tempo». «Una donna!» Ma lei scosse la testa. Stava portando via le ciotole dopo il pasto serale. Il vecchio era andato a letto ed erano soli nella notte, con soltanto la luce che cadeva su di loro dalla fiamma tremolante di una piccola lampada di stagno riempita di olio di soia, dove era sospeso un cordino di cotone arrotolato a fare da stoppino. «Nessuna donna?» chiese lui costernato. Stava cominciando ad abituarsi a quelle conversazioni con lei, il cui contributo era poco più di un movimento della testa o della mano, o al massimo un'occasionale parola uscita di controvoglia dall'ampia bocca. Era arrivato anche a sentire che a quelle conversazioni non mancava nulla. «Ma sarà strano con solo due uomini in casa», continuò. «Mia madre aveva avuto una donna del paese. Io non so niente di queste cose. Non c'è nessuno nella grande casa, nessuna vecchia schiava che ti era amica e che potrebbe venire». Era la prima volta che menzionava la casa da cui era venuta. Ora la donna si girò verso di lui come non l'aveva mai vista, gli occhi sottili, sbarrati, il viso scosso da una rabbia sorda. «Nessuno in quella casa!» esclamò. Wang Lung fece cadere la pipa che stava riempiendo e la fissò, ma la sua faccia era tornata improvvisamente quella di sempre e lei raccolse le bacchette come se non avesse affatto parlato. «Questa è una sorpresa!» disse stupito. Ma lei non disse niente. Allora Wang Lung riprese il suo ragionamento. «Noi due siamo uomini e non abbiamo nessuna esperienza di parti. Non sta bene che mio padre entri nella tua stanza e io non ho nemmeno visto partorire una vacca. Le mie mani goffe potrebbero rovinare il bambino. Qualcuno della grande casa, insomma, dove le schiave partoriscono sempre». Lei aveva posato con attenzione le bacchette in una pila ordinata sul tavolo e lo guardò. E dopo averlo fissato un istante, disse: «Tornerò in quella casa quando terrò in braccio mio figlio. Gli avrò messo una giubba rossa e pantaloni a fiori rossi e in testa un cappello con un piccolo Buddha dorato cucito sulla fronte, e ai piedi scarpe con la faccia di tigre. E io indosserò scarpe nuove e una giubba nuova di raso nero. Ed entrerò in cucina dove ho passato molti giorni, ed entrerò nella grande sala dove la venerabile anziana siede fumando l'oppio, e mostrerò a tutti loro me e mio figlio». Non l'aveva mai sentita pronunciare tante parole. Furono dette in tono fermo, senza interruzione, sebbene lentamente, e Wang Lung si rese conto che aveva progettato tutto per conto suo. Quando lavorava nei campi accanto a lui, aveva progettato tutto questo. Quant'era sorprendente quella donna. Wang Lung avrebbe detto che non avesse quasi pensato al bambino, tanto aveva continuato a lavorare in silenzio un giorno dopo l'altro. Invece vedeva il bambino, nato e perfettamente vestito, e vedeva se stessa, sua madre, con una giubba nuova. Per una volta era rimasto lui senza parole, e intanto pressava diligentemente il tabacco, facendone una pallottola tra il pollice e l'indice, la infilò nel braciere della pipa che aveva sollevato. «Beh, immagino che ti serviranno dei soldi», disse Wang Lung alla fine con voce apparentemente burbera. «E se vuoi darmi 3 pezzi d'argento», disse lei con evidente timore, «è molto, ma ho calcolato con attenzione e non sprecherò un centesimo. Farò in modo che il venditore di stoffe mi dia tutto fino all'ultimo pollice». Wang Lung frugò nella cintura. Il giorno prima aveva venduto al mercato in città un carico e mezzo di canne prese dallo stagno a ovest e nella cintola aveva poco più di quanto lei volesse. Mise i $3 d'argento sul tavolo, poi, dopo un istante di esitazione, aggiunse un quarto pezzo che aveva tenuto a lungo con sé nel caso che gli venisse voglia di giocare un po' d'azzardo in qualche mattino alla casa del tè. Ma si limitava ad attardarsi davanti ai tavoli a guardare i dadi che ticchettavano sul tavolo nel timore di perdere se avesse giocato. In genere finiva per trascorrere le ore libere in città alla baracca del Cantastorie, dove si poteva ascoltare una vecchia storia e pagare non più di un centesimo gettandolo nella ciotola che veniva fatta passare tra il pubblico. «Meglio se prendi l'altro pezzo», disse accendendo la pipa tra una parola e l'altra, soffiando rapidamente sulla strisciolina di carta per farle prendere fuoco. «Fai fare pure la giubba Per lui, con un avanzo di seta. In fondo è il nostro primo figlio. Lei non prese subito i soldi, ma rimase a guardarli, il viso immobile. Poi disse in un mezzo sussurro: "È la prima volta che tengo in mano soldi d'argento". All'improvviso li prese, li strinse nella mano e corse nella stanza da letto. Wang Lung rimase seduto a fumare, pensando al pezzo d'argento che era stato sul tavolo. Era venuto dalla terra quell'argento, fuori da quella terra che lui arava e rivoltava e sulla quale si consumava. Da quella terra prendeva la propria vita, con il suo sudore, goccia dopo goccia, le strappava il cibo e dal cibo l'argento. Ogni volta che aveva preso dell'argento per darlo a qualcuno, era stato come prendere un pezzo della sua vita e darlo sconsideratamente a un altro, ma adesso, per la prima volta, lo faceva senza provare dolore. Vedeva l'argento non nella mano estranea di un mercante in città, lo vedeva trasformato in qualcosa che valeva molto di più dell'argento, vestiti sul corpo di suo figlio. E quella sua strana donna che lavorava e non diceva niente, e sembrava non vedere niente, aveva visto per prima il bambino così vestito. Quando l'ora fosse venuta non avrebbe avuto con sé nessuno. L'ora venne una sera, presto, quando il sole stava tramontando. Lavorava accanto a lui nel campo dove facevano il raccolto. Il grano aveva dato frutto ed era stato tagliato. Il campo era stato allagato e le pianticelle di riso erano state trapiantate. E adesso il riso era pronto per essere raccolto. E le spighe mature e piene dopo le piogge estive e il caldo e fruttifero sole dell'inizio d'autunno. Tagliarono insieme i fasci per tutto il giorno, piegandosi e tranciandoli con falci dal manico corto. Lei era china, ma con rigidità a causa del suo fardello, e avanzava più lentamente di lui, cosicché la linea del taglio non era uguale, quella di lui avanti e quella di lei indietro. Mentre il mezzogiorno faceva spazio al pomeriggio e poi alla sera, lei cominciò a tagliare sempre più lentamente e lui si volse a guardarla con ansia. Lei allora si fermò e si rialzò, lasciando a terra la falce. Sul suo viso c'era un nuovo sudore, il sudore di una nuova sofferenza. "È il momento", disse. "Vado in casa, non entrare nella stanza finché non ti chiamo. Portami solo una canna appena sbocciata e tagliala per il lungo, così che posso separare la vita del bambino dalla mia". Attraversò i campi dirigendosi verso la casa, come se niente fosse. E dopo averla osservata, Wang Lung andò sul bordo del laghetto nel campo esterno e scelse una sottile canna verde. La sbucciò attentamente e la incise con la lama della falce. La rapida oscurità dell'autunno stava scendendo e Wang Lung si mise la falce in spalle e andò a casa. Arrivato a casa, trovò la cena calda sul tavolo e il vecchio occupato a mangiare. Nel suo travaglio si era fermata a preparargli il cibo. Wang Lung si disse che una donna così non si trovava facilmente. Poi andò alla porta della loro stanza e disse a voce alta: "Ecco la canna". Attese, pensando che gli avrebbe gridato di portargliela dentro, ma non lo fece. Arrivò alla porta e attraverso la fessura la sua mano si sporse fuori e prese la canna. Non disse una parola, ma lui la sentì ansimare come un animale dopo una lunga corsa. Il vecchio sollevò lo sguardo dalla ciotola e disse: "Mangia o si raffredda". E poi disse: "Non tormentarti ancora, ci vorrà tempo. Ricordo che quando mi è nato il primo figlio era già spuntata l'alba e ancora non era finito. Ah, e pensare che di tutti i figli che ho generato e che tua madre ha partorito uno dopo l'altro saranno stati una ventina, l'ho dimenticato. Solo tu sei sopravvissuto. Vedi per quale motivo una donna deve continuare a partorire". E poi disse ancora, come se ci avesse pensato solo in quel momento: "Domani a quest'ora sarò il nonno di un bambino maschio". E all'improvviso si mise a ridere, smise di mangiare e rimase a ridacchiare a lungo nella penombra della stanza. Ma Wang Lung rimase accanto alla porta ad ascoltare quel pesante, ansito animale. Un odore di sangue caldo filtrò dalla fessura, un odore nauseabondo che lo spaventò. L'ansimare della donna là dentro divenne rapido e forte come grida sussurrate, ma senza che fosse articolato alcun suono. Wang Lung era arrivato al punto di non sopportarlo più e stava per entrare nella stanza quando un grido violento e sottile risuonò e lui dimenticò tutto. "È un maschio", gridò scalpitante, dimenticando la donna. Il grido sottile esplose di nuovo, tenace, insistente. «È un maschio!» gridò un'altra volta. «Dimmi almeno questo, è un maschio!» E la voce della donna rispose flebile, come un eco. «Un maschio!» Allora si mosse e andò a sedersi al tavolo. E come era successo tutto rapidamente. Il cibo era freddo da un pezzo, il vecchio dormiva sulla sua panca. Ma come era successo tutto rapidamente. Scosse la spalla del vecchio. «È un maschio!» esclamò trionfante. «Tu sei nonno, io sono padre!» Il vecchio si svegliò all'improvviso e cominciò a ridere, come aveva riso al momento di addormentarsi. «Sì, certo!» fece con voce ghiacciante. «Un nonno, un nonno!» E si alzò e andò al suo letto, sempre ridendo. Wang Lung prese la ciotola di riso freddo e si mise a mangiare. Tutto a un tratto aveva molta fame, non riusciva a mettersi in bocca il cibo abbastanza in fretta. Poteva sentire la donna che si trascinava per la stanza e le grida del bambino, ininterrotte e penetranti. «Immagino che non avremo più pace in questa casa», si disse orgogliosamente. Quando ebbe mangiato a piacimento, andò nuovamente alla porta e lei lo chiamò dicendogli di entrare. E lui entrò. L'odore caldo del sangue versato era ancora sospeso nell'aria, ma non ce n'era più traccia se non nella vasca di legno. Vi aveva versato dell'acqua e l'aveva spinta sotto il letto e lui la intravide appena. La candela rossa era accesa e lei era adagiata sul letto, coperta per bene. Accanto a lei, avvolto in un paio di vecchi pantaloni del marito, come era costume da quelle parti, c'era suo figlio. Si avvicinò. E in un primo istante non ci furono parole nella sua bocca. Il cuore gli premeva nel petto e si chinò verso il bambino per guardarlo. Aveva la faccia tonda e rugosa, che sembrava molto scura, e sulla sua testa i capelli erano lunghi e umidi e neri. Aveva smesso di piangere, se ne stava con gli occhi serrati. Guardò sua moglie e lei ricambiò il suo sguardo. I suoi capelli erano ancora bagnati dopo l'intenso dolore e gli occhi sottili erano incavati. A parte questo, era come sempre, ma lui la trovò commovente, sdraiata là. Un impeto di emozione lo colse e non sapendo cos'altro si potesse dire, annunciò: «Domani andrò in città e comprerò una libbra di zucchero rosso e te lo scioglierò nell'acqua bollente, così che potrai berlo». E poi, mentre guardavo un'altra volta il bambino, sgorgarono da lui queste parole come se le avesse appena pensate. «Dovremo comprare un bel cesto di uova e colorarle tutte di rosso per il paese, così tutti sapranno che ho un figlio». 4. Il giorno dopo la nascita del bambino, la donna si alzò come al solito e preparò da mangiare per loro, ma non andò nei campi con Wang Lung e così lui lavorò da solo fino oltre il mezzogiorno. Poi indossò la veste azzurra e andò in città. Andò al mercato e comprò 50 uova. Non erano appena deposte, ma erano ancora buone, pagandole un centesimo ciascuna. E comprò della carta rossa da far bollire nell'acqua insieme alle uova, per farle diventare rosse. Poi, con le uova nel cesto, andò nel negozio dei dolciumi e là comprò una libra abbondante di zucchero rosso. E osservò come veniva avvolto con attenzione nella sua carta bruna e sotto il cordino di paglia che lo fermava, il venditore di zucchero infilò sorridendo una striscia di carta rossa. «È per la madre di un neonato, forse?» «Un primo figlio maschio!» disse orgoglioso Wang Lung. «Ah, buona fortuna!» rispose distrattamente l'uomo, lo sguardo puntato su un cliente ben vestito che era appena entrato. Quelle parole l'uomo le aveva dette molte volte ad altre persone, addirittura ogni giorno a qualcuno. Ma a Wang Lung parvero qualcosa di speciale e la cortesia dell'uomo gli fece piacere. E fra continui inchini uscì dal negozio, incamminandosi sotto al forte sole della strada polverosa. Gli sembrava che nessun uomo fosse mai stato tanto baciato dalla fortuna. Ci pensò, all'inizio con gioia e poi con una fitta di angoscia. Non era una buona cosa essere troppo fortunati in questo mondo. L'aria e la terra erano piene di spiriti maligni che non sopportavano la felicità dei mortali, soprattutto dei poveri. Girò bruscamente per entrare nel negozio del candelaio, che vendeva anche incenso, e ne comprò 4 bastoncini, uno per ogni persona della casa. E con i 4 bastoncini Andò nel tempietto degli dei della terra e l'infilzò nella cenere fredda dell'incenso che insieme a sua moglie vi aveva messo in precedenza. Osservò i quattro bastoncini bene accesi e poi si diresse verso casa confortato. Quelle due figurine protettrici dall'aria grave sotto il loro tettuccio, quale potere avevano? E poi, quasi prima che potesse rendersene conto, la donna era tornata nei campi accanto a lui. Il tempo del raccolto era finito e ora battevano il grano nello spazio antistante la casa che faceva da aia. Lo battevano con i correggiati, lui e la donna insieme. E quando il grano fu trebbiato, tolsero la pula, lanciandolo verso l'alto dai grandi cesti piatti di bambù, afferrando il buon grano che cadeva e lasciando che il vento soffiasse via la pula in una nuvola. Poi c'erano i campi da seminare di nuovo per il grano invernale. E dopo che Wang Lung ebbe asciugato il bue e arato il suolo, la donna lo seguiva con la sua zappa e spezzava le zolle nei solchi. Adesso lavorava tutto il giorno e il bambino dormiva disteso a terra sopra una vecchia e logora coperta. Quando piangeva, la donna si fermava e seduta a terra si scopriva il seno avvicinandolo alla bocca del bambino e il sole batteva su entrambi. Il sole riluttante del tardo autunno che non vuole lasciare andare il calore dell'estate fin quando il freddo dell'inverno non lo costringa. La donna e il bambino erano scuri come il suolo e là seduti sembravano statuette di argilla. Sopra i capelli della donna e sulla testa morbida e scura del bambino c'era la polvere dei campi, ma il latte che sprizzava per il bambino dal grande seno scuro della donna era bianco come la neve. E quando il bambino succhiava, un capezzolo usciva dall'altro, come il getto di una fontana, e lei lasciava che scorresse. C'era più che abbastanza per il bambino e la sua avidità. C'era abbastanza vita per molti bambini, e lei lo lasciava scorrere senza badarci, consapevole della propria abbondanza. Sembrava non finire mai. A volte sollevava il seno e lo lasciava scorrere sul terreno per non sporcare gli abiti. E il latte penetrava nella terra, creando sul terreno una macchia morbida, nera e ricca. Il bambino era grasso e aveva un buon carattere e si nutriva dell'inesauribile vita che sua madre gli dava. Arrivò l'inverno ed erano preparati ad affrontarlo. I raccolti erano stati abbondanti come non mai e la piccola casa con le sue tre stanze ne era piena zeppa. Alle travi del tetto, ricoperto di paglia, erano appese file su file di cipolle e aglio secchie nella stanza centrale, e in quella del vecchio e nella loro c'erano stuoie di canne piegate in forma di grandi giare, e queste erano piene di grano e riso. Molto di tutto questo sarebbe stato venduto, ma Wang Lung era frugale e non spendeva liberamente i suoi soldi, come facevano molti dei compaesani nel gioco d'azzardo o in cibi troppo raffinati per loro. E non doveva quindi vendere il grano al momento del raccolto, quando il prezzo era basso. Lo conservava, invece, e lo vendeva quando la neve copriva il terreno, o a Capodanno, quando la gente di città è pronta a pagare qualsiasi prezzo per il cibo. Suo zio doveva vendere sempre il suo grano, anche prima che fosse arrivato a maturazione. A volte, pur di avere in fretta un po' di contanti, lo vendeva addirittura nel campo per risparmiarsi la fatica del raccolto e della trebbiatura. D'altra parte, sua moglie era una donna sciocca, grassa e pigra, e voleva sempre dolci, voleva questo e quello, e scarpe nuove comprate in città. La moglie di Wang Lung faceva tutte le scarpe per lui e per il vecchio e per i suoi stessi piedi e per quelli del bambino. Non avrebbe saputo come fare se lei avesse voluto comprare delle scarpe. Nella vecchia e cadente casa dello zio non c'era mai niente appeso alle travi, mentre nella sua c'era persino una zampa di porco che aveva comprato dal suo vicino Ching, quando questo aveva ammazzato il maiale che sembrava aver preso qualche malattia. Era stato ucciso presto, prima che perdesse peso, e la zampa era grossa, e Olan l'aveva salata per bene, l'aveva appesa per farla seccare. C'erano anche due dei loro polli ammazzati e sventrati, messi a seccare ancora con le penne, riempiti di sale. In mezzo a tutta quell'abbondanza, se ne stavano dunque in casa quando i venti dell'inverno arrivarono dal deserto a nord-est, venti rigidi e taglienti. Presto il bambino fu in grado di sedere quasi da solo. Al compimento del mese, quando aveva raggiunto una luna di vita, Avevano festeggiato mangiando spaghetti che significano lunga vita e Wang Lung aveva invitato quelli che erano venuti per il suo festino di matrimonio e a ognuno aveva dato 10 delle uova rosse che aveva bollito e colorato e a tutti quelli che erano arrivati dal paese per congratularsi ne aveva date 2 e ognuno gli invidiò suo figlio, un bambino grasso e paffuto con un faccino da luna e gli zigomi alti come sua madre. Adesso che era arrivato l'inverno, se ne stava seduto sulla coperta stesa sul pavimento di terra della casa, invece che nei campi. E aprivano la porta a sud per far entrare la luce. E il sole entrava e il vento del nord batteva invano contro lo spesso muro di terra della casa. Presto le foglie vennero strappate dal giuggiolo sull'aia e dai salici e dai peschi vicino ai campi. Solo le foglie dei bambù restavano attaccate ai fusti nella rada macchia a est della casa e sebbene il vento le tirasse con raddoppiata forza, resistevano. Con quel vento asciutto, i semi di grano nella terra non riuscivano a germogliare e Wang Lung aspettava con ansia le piogge. E poi le piogge arrivarono all'improvviso in una quieta giornata grigia, quando il vento era cessato e l'aria era calda e tranquilla ed erano tutti in casa con una sensazione di benessere a guardare la pioggia che cadeva, abbondante, dritta e penetrava nei campi attorno all'aia e colava dalla paglia del tetto sopra la porta. Il bambino era stupefatto e tendeva le mani per raccogliere le linee d'argento della pioggia che cadeva e rideva e loro ridevano con lui. E il vecchio, accovacciato sul pavimento accanto al bambino, diceva: un altro bambino così non si trova nemmeno cercando in una dozzina di paesi. I marmocchi di mio fratello non capivano niente prima di imparare a camminare. E nei campi i semi di grano germogliarono e buttarono punte di un verde delicato sopra la terra bruna e bagnata. In periodi come quello si ricevevano visite perché ogni contadino sentiva che una volta tanto nei campi lavorava il cielo. E le messi venivano bagnate senza che le loro schiene si spezzassero, portando avanti e indietro secchi appesi a un bastone sopra le spalle. E al mattino si riunivano, ora in una casa, ora in un'altra, bevendo tè qua e là, andando di casa in casa a piedi nudi lungo lo stretto sentiero fra i campi, sotto grandi ombrelli di carta oleata. Le donne stavano a casa a fare scarpe e a rammendare vestiti, se erano parsimoniose. E pensavano ai preparativi per la festa del Capodanno, ma Wang Lung e sua moglie non partecipavano spesso alle visite. Non c'era casa in quel villaggio di piccole case sparse, una mezza dozzina, tra cui anche la loro, ugualmente piena di calore e abbondanza. E Wang Lung sentiva che se si fosse avvicinato troppo agli altri sarebbero iniziate le richieste di prestiti. Capodanno era in arrivo e chi aveva tutti i soldi che voleva per vestiti nuovi e festeggiamenti? Wang Lung restava nella sua casa e mentre la donna rammendava e cuciva, lui esaminava i suoi rastrelli di bambù e dove una corda era rotta ne legava una nuova fatta della canapa che lui stesso cresceva e dove un dente era scheggiato vi inseriva abilmente un nuovo pezzo di bambù. E quello che lui faceva per gli attrezzi agricoli, sua moglie Olan lo faceva per quelli di casa. Se un vaso di terracotta perdeva, lei non lo scartava, come facevano altre donne, e non ne pretendeva uno nuovo. Mescolava invece terra e argilla e chiudeva la fessura e lo scaldava lentamente e tornava buono, come se fosse stato nuovo. Restavano perciò nella loro casa, contenti di apprezzare quel che l'altro o l'altra faceva, anche se i loro discorsi non erano che parole sparse come queste. Hai tenuto i semi della grande zucca per la nuova semina? Oppure, vendiamo la paglia del grano e bruciamo gli steli dei fagioli in cucina. O capitava che Wang Lung raramente dicesse: questo è un buon piatto di spaghetti. E Olan rispondeva, schermendosi: è la buona farina che abbiamo quest'anno dai campi. In quella buona annata, grazie ai suoi prodotti, Wang Lung aveva messo da parte un gruzzolo di dollari d'argento, oltre a ciò che serviva per i loro bisogni, e aveva paura di tenerlo nella cintura o di parlarne a chiunque altro che non fosse la sua donna. Pensarono a dove potevano conservarlo, e alla fine la donna scavò accortamente un piccolo buco nella parete interna della loro stanza dietro il letto, dove E Wang Lung vi infilò l'argento e con una manciata di terra coprì il buco, ed era come se là dentro non ci fosse niente. Ma a Wang Lung e Olan dava un senso di segreta ricchezza e di possedere una riserva. Wang Lung sapeva di avere più soldi di quanto avesse bisogno di spendere, e quando camminava in mezzo agli altri si sentiva a proprio agio con se stesso e con tutti.